non molliamolo, non molliamolo, alziamo il dito e urliamolo, dardiamolo, urliamolo. Mi sono sentito rinato quando Renato ha urinato sul prato, si è seduto, ha parlato, sbigottito è restato, traumatizzato ancora senza fiato, con la fiato rivastra di Ron, bruciata a colpi di phon sotto la piastra di John. Siamo rimasti bloccati con la faccia incollata, la sacca lanciata contro la giacca macchiata, causa mancata chiamata e rispettiva caduta, perché la tipa è venuta, questa è una storia malata. Quella ragazza l'ho amata, senza conoscerla è stata una stronzata cariata, l'ho voluta sognata, poi retestata e tanto odiata, vista insieme la culla, fanciulla qualcuno la ciulla, fanculla chi mi ha detto, io te l'avevo detto, mi devi del rispetto, ok fuori ti aspetto, ti metti in quel sacchetto, chiusi poi in quel cassetto, ti tiro fuori dopo, prima mi metto a letto, e se non l'hai capito, prima ti faccio il dito, rima con laccio amico, che uso per legarti, finché non sei sbiadito, finché non muovi gli arti, non arrabbiarti, fatti i cazzi tuoi, non lamentarti. Fatti i cazzi tuoi, non ti chiedo niente, ignorami se vuoi, non mi perdo niente, non parlare al bambera, o tutto presto cambierà, non si compra la vita, vedremo che succederà. Fatti i cazzi tuoi, non ti chiedo niente, ignorami se vuoi, non mi perdo niente, non parlare a bambera, o tutto presto cambierà, non si compra la vita, vedremo che succederà. Esibizionista incallito, con fare poco gradito, col viso condito, col trucco condito, posto per rito per lasciare di stucco, e sembra un crucco, brutto ciarlatano, parla con l'ano, vuoi che ti rutto? Pensano che venga distrutto, quando vengo dipinto come un mucchio distrutto, sono grasso che cola, vedo l'invidia che vola, dietro le natiche, parlo e faccio gola, con rime aerostatiche, statistiche alla mano, piazza sa il mio modo, come sai che godo, perché ora mi lodo, non rodo dentro come una cagna che si lagna, come te rodo dentro di montagna, sono uomo di mondo, stai alla lavagna, che la tipa qua si bagna e ce l'ho alle calcagna, porto acqua che non stagna, solo roba fresca che profuma di lavanda, mettiteli in testa come presto festa, dico lesta chi detesta questa. Fatti i cazzi tuoi, non ti chiedo niente, ignorami se vuoi, non mi perdo niente, non parlare a bambera o tutto presto cambierà, non si compra la vita, vedremo che succederà. Fatti i cazzi tuoi, non ti chiedo niente, ignorami se vuoi, non mi perdo niente, non parlare a bambera o tutto presto cambierà, non si compra la vita, vedremo che succederà. Se non hai compreso e fai l'offeso, sei ridicolo, ridicolo, colon tricolore, l'intestino atipico, tipico al tipo critico, pensa di essere mitico, mitico, meticolosità, RT per far pericolo, ho il veicolo sul vicolo che va al viticolo, col vino nel ventricolo che pulsa in modo illogico, così gioco logico, se logica è tragica, mente sempre scarica, mi carico di musica, e musiche mi vogliono creare cicatrici, ciccano come cicche in bocche piene a meretrici, perché non vedo peso, sono illeso, ricordi, sono obeso, tu sei leso, forza di sentirti, dirti di fatti i cazzi tuoi, cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, cazzi tuoi, fatti i cazzi tuoi, non ti chiedo niente, ignorami se vuoi, non mi perdo niente, non parlare a bambera o tutto presto cambierà, non si compra la vita, vedremo che succederà. Fatti i cazzi tuoi, non ti chiedo niente, ignorami se vuoi, non mi perdo niente, non parlare a bambera o tutto presto cambierà, non si compra la vita, vedremo che succederà. Fatti i cazzi tuoi, non ti chiedo niente, ignorami se vuoi, non mi perdo niente, non parlare a bambera o tutto presto cambierà, non si compra la vita, vedremo.